Cavolino e le volpi. Cavolino, un cucciolino delizioso ma molto birichino, apparteneva a una bambina di nome Elena. Cavolino masticava le lettere, si sedeva sulla biancheria pulita e si rotolava nelle aiuole. La prima cosa che fece quando arrivò nella casa di Elena fu quella di rubare un cavolo dal cesto della spesa e correre per tutta la cucina trascinandoselo dietro. Ecco perché venne chiamato Cavolino. Un giorno Elena e Cavolino stavano giocando vicino alla vasca dei pesci. Cavolino abbaiava i pesciolini dorati, cercando di acchiapparli quando saltavano sull'acqua. La mamma di Elena chiamò. «La merenda è pronta!» «Rimani qui, Cavolino, vengo subito!» Negli occhietti di Cavolino passò un lampo di malizia. «Ah, ecco l'occasione per andare ad annusare i rifiuti senza che mi sgridino!» Ma dall'altro lato della siepe si trovava Mamma Volpe con i suoi tre volpini. Uno dei piccoli stava annusando gli interessanti odori dei rifiuti. Si infilò in un buco della siepe e si trovò muso a muso con Cavolino. «Sei proprio una buffa volpe tu, con quelle orecchie all'ingiù», disse il volpacchiotto. «Non sono una volpe, sono un cagnolino cucciolo». «Non ho mai sentito parlare di cuccioli in vita mia, e tu mamma?» Ma Mamma Volpe lo chiamò. «Vieni qui, volpacchiotto birbone!» Il volpacchiotto se ne andò e Cavolino lo seguì attraverso la siepe. Quando Elena uscì dalla casa, chiamò «Cavolino! Vieni qui, Cavolino!» Ma Cavolino se ne era andato. Mamma Volpe si accorse dell'estraneo fra i suoi volpacchiotti, ma aveva troppa fretta per mandare via Cavolino. Una volta a casa, nel bosco, non le dispiacque che il cucciolo rimanesse lì a giocare. Da principio fu divertente. Il cucciolino e i volpacchiotti giocavano a nascondino e cacciavano insetti e rane. E anche se erano sudicissimi, nessuno li sgridava. Ma presto venne il buio e l'aria si fece umida e pungente. «Che c'è per cena?» chiese Cavolino. «Ossa, insetti e orecchie di coniglio!» risposero i nuovi amici. I boschi non erano accoglienti come la cucina della casa di Elena. 12 zampette spingevano e facevano ruzzolare Cavolino quando cercava di ingoiare un po' di cibo. «È ora che tu torni a casa», disse Mamma Volpe. Cavolino si guardò attorno e non vide che ombre dense di rumori spaventevoli. «Ma io non so tornare a casa», Mamma Volpe capì. «Puoi restare qui per stanotte». Le volpi dormivano in un buco nel terreno, tutte ammucchiate le une sulle altre. Durante la notte la pioggia sgocciolava nella tana. «Non mi piace fare la volpe», pensò Cavolino. «Come vorrei essere di nuovo un cucciolo nel suo cestino». Il mattino seguente Cavolino sgattaiolò fuori dalla tana. Trotterellò per un po', poi si sedette e cominciò a ululare e a ululare e a ululare. Non lontano si udì la voce di Elena. «Cavolino! È Cavolino!» Elena lo stava cercando dall'alba. Quando il cagnolino vide Elena che correva verso di lui, scodinzolò e abbaiò felice. «Cavolino!» gridava Elena, coccolando il suo cagnolino. «Non scappar via mai più, hai capito?» E Cavolino pensò. «Non lo farò davvero, almeno fin quando le volpi non diventeranno più divertenti!»